Mix 24, musica e storia. Bentornati su Mix 24 Musica e Storia. Io sono Alessandra Fiori e qui con me per raccontarvi questo 1984 c'è sempre lui. Sono Franco Schipani, ciao! E allora, nel 1984 la canzone in testa alle nostre classifiche e a quelle di tutto il mondo è questa. I just called to say I love you. I just called to say much I care. I just called to say I love you, and I mean it from the bottom of my. Stevie Wonder, I just called to say I love you. Un genio, uno che è nato genio, già da piccolino suonava tutti gli strumenti, cara Alessandra. Tant'è vero che dopo è cresciuto e moltissimi artisti di grande successo internazionale hanno sempre chiesto la sua collaborazione a vari livelli. Scusami, ma tu ci pensi la meraviglia assoluta di dire ti ho chiamato solo per dirti ti amo? Ma pensa che meraviglia, adesso tutti gli innamorati dovrebbero farlo, alzare il telefono, brava. Basta mettere la canzone. Dici che è una cosa molto illusoria? No, divertentissimo. Non è che ora vi squilla il telefono. Chiamate. Chi amate? Oh, wow. Giocone di Franco Schivani, evviva! E pensa che io ho ricevuto una volta una telefonata proprio di Stevie Wonder, non per dirmi I just called to say I love you, no, per dirmi strano. Guarda, allora uccidimi, non posso venire oggi allo show di Raffaella Carrà, però ti prometto che verrò la settimana prossima appena sto meglio. La credo, maestro, la credo. Infatti la settimana dopo venne puntualmente in teatro, cara Alessandra. Vedi che umiltà e correttezza, assolutamente. Il genio. E invece, caro Franco, come abbiamo raccontato, nel 1983 è stato arrestato Tommaso Buscetta e adesso, il 29 settembre del 1984, il boss mafioso inizia la sua collaborazione con la giustizia e proprio grazie alle sue rivelazioni vengono spiccati centinaia di ordini di cattura e lui sarà uno dei protagonisti del maxi processo alla mafia che inizia nel 1986. Però purtroppo la mafia non si ferma e reagisce subito. Nella tarda serata del 23 dicembre del 1984, un'esplosione rovina il Natale dell'Italia intera. Buonasera dalla redazione di Bologna, dunque un bilancio tremendo. Ufficialmente accertate 15 vittime nell'attentato, ma non è escluso che la violenza dell'esplosione abbia addirittura fatto volatilizzare i corpi di uno o due passeggeri nel treno, il 904 Milano-Roma, il rapido. Il Presidente della Repubblica, Pertini, visibilmente scosso da questa ennesima tragedia causata da mani assassine, si è recato stamani a Bologna, dopo essere giunto all'aeroporto, a rendere omaggio alle vittime e ai feriti, con i quali ha scambiato qualche parola affettuosa. Gli hanno sentito dire Bologna, ancora Bologna. E questo per significare la città che è già stata colpita 3 volte dalle stragi, i 12 morti dell'Italicus 10 anni fa in circostanze assolutamente analoghe, gli 85 della stazione il 2 agosto dell'80 e adesso questa ulteriore tremenda sfida. Alle 19.04 del 23 dicembre una bomba esplode a bordo del rapido 904, è stracolmo, il bilancio è di 16 morti e 266 feriti. Le indagini mettono in luce le connessioni tra i piani alti di Cosa Nostra e la manovalanza della camorra. La strage sarebbe stata ordinata per costringere lo Stato ad allentare la repressione in corso in Sicilia, dove la mafia, come dicevamo, stava subendo attacchi da magistratura e forze dell'ordine, grazie appunto al contributo dei cosiddetti collaboratori di giustizia. Così alcuni sopravvissuti ricordano quel tragico Natale di sangue del 1984. C'è stato anche l'impatto violentissimo di una carrozza sull'altro, di un vagone sull'altro, perché si è fermato all'improvviso. La gente gridava e le porte del treno erano state forzate, qualcuno era già sceso giù sui binari. C'era gente che urlava in maniera straziante, forse urla che non ho mai sentito, insomma, così. Proprio così da dentro, così dal cuore, così dalla disperazione. Madre con i bambini feriti, l'altro, cioè, indescrivibile. Federica, questo nome l'ho sentito per tutte quelle ore in maniera disperata, urlata da questa mamma. In quel momento io volevo uscire dalla galleria, mi sentivo in trappola, mi sentivo sotterrata. Io pensavo ottusamente, insomma, ma dove vanno, dove si avviano, cominciano a camminare, vanno, si fanno tutta la galleria a piedi, cosa sperano di raggiungere? Alzando gli occhi mi sembrava di vedere il cielo. È una sensazione strana sapere poi dopo che quella era la galleria più lunga d'Italia e che non avremmo mai superato a piedi. È stato qualcosa di indicibile. All of you, Julio Iglesias e Diana Ross, State of Shock. Pensa, Michael Jackson e Mick Jagger. Scusami Franco, ma perché, adesso niente da obiettare, ma perché proprio la scelta di questi due brani? Perché proprio nel 1984 stiamo assistendo a un fenomeno nuovo, che è quello delle grandi collaborazioni tra artisti affermatissimi che evidentemente hanno bisogno l'uno dell'altro. Somebody's Watching Me, Rockwell e Michael Jackson. Jackson. Senti Franco, ma in Italia c'è lo stesso spirito di collaborazione? Beh, si cominciava. Grazie perché mi eri vicina ancora prima di essere mia. E perché vuoi che vai per la tua strada piena di sassi come la mia. Grazie perché anche lontano tendo la mano. Grazie perché Gianni Morandi e Amy Stewart, la cantante statunitense che a quanto pare ha trovato la sua, diciamo, America qui da noi in Italia, ospite fissa di numerosi programmi televisivi, ma mi dicono Fantastico, insomma è altro. Siamo nel 90 con Fantastico. Sì, sì, sì, ma lei rimane qui fino al 90 e collabora con i più grossi musicisti italiani. You 24, musica e storia. Bentornati su Mix 24 Musica e Storia, siamo nel 1984, saltiamo tutti insieme con Franco Schipani. Ciao Alessandra. Ciao Franco. Senti, questo è Jump. Di Van Halen. Il cantante si chiama David Lee Roth, quello che salta, perché lui fra l'altro faceva arti marziali. Però ecco, la prima volta che io l'ho incontrato, lui è venuto con due guardie del corpo, ti giuro che non erano più alti di 1,10 m, veramente, però tutte e due cinture nere di karate, erano le sue guardie del corpo. Ecco, invece purtroppo non aveva guardie del corpo Giuseppe Fava, giornalista, scrittore, quando alle 9:30 della sera del 5 gennaio del 1984 viene ucciso con 5 colpi calibro 7.65 sparati alla nuca. Il movente è chiaro fin dal primo momento. Fava è stato ucciso per il suo impegno come giornalista e per le denunce continue fatte nei suoi articoli e nelle sue interviste contro la mafia. Solo 7 giorni prima del suo omicidio c'era stata questa intervista televisiva. Io vorrei che gli italiani sapessero che non è vero che i siciliani sono mafiosi. I siciliani lottano da 30 secoli contro la mafia. I mafiosi stanno in Parlamento, i mafiosi a volte sono ministri, i mafiosi sono banchieri, i mafiosi sono quelli che in questo momento sono i vertici della nazione. Il problema della mafia è molto più tragico e più importante, è un problema di vertice nella gestione della nazione ed è un problema che rischia di portare alla rovina, al decadimento culturale definitivo l'Italia. L'uomo politico non cerca attraverso la mafia soltanto il potere, cerca anche la sua ricchezza personale, perché dalla ricchezza personale ne deriva potere e deriva la possibilità di avere sempre quei 150.000-200.000 voti di preferenza. I mafiosi ora non sono quelli che ammazzano, quelli sono gli esecutori, anche al massimo livello. Io ho visto molti funerali di Stato. Io dico una cosa della quale io solo sono convinto che può anche quindi non essere vera, ma molto spesso gli assassini erano sul palco delle autorità. Parole durissime, un problema di vertice nella gestione della nazione, parole per le quali Giuseppe Fava ha pagato con la morte. I can wait another day until I call you. You've only got my heart on a string and everything a flutter. But another lonely night might take forever. We've only got each other to blame. It's all the same to me, love, 'cause I know what I feel. Paul McCartney, No More Lonely Nights. Paul McCartney che ancora non era andato a Sanremo, ci andrà qualche anno più tardi. Franco, noi ci stiamo per andare a Sanremo, questo mi vuoi dire? Esatto, allora vincono Albano e Romina con Ci Sarà, però io ti voglio far ascoltare quella che è stata veramente la rivelazione di questo 1984. Scusami Franco, ma nasce il fenomeno Ramazzotti. È ufficiale, sentito che lui nomina New York nella canzone a un certo punto, l'America. Me ne parli solo per questo? No, perché lui è arrivato a New York, era sempre un anche da già, immagina, lui era un ragazzo di una bellezza esasperante. Noi andavamo in giro nei ristoranti e le ragazze lo guardarono, ma sai chi è che veramente se lo mangiava con gli occhi? Chi? Le MILF. No, Franco, non usare questo termine, mi fa impazzire. Le MILF, le Cougar. Hai mai sentito di niente di più volgare? No, Franco, non lo so. Beh, ho sentito qualcosa di più volgare. Sì, credo che tu lo abbia sentito di più volgare. Però ecco, non scendiamo in dettagli. Ma questo è inaccettabile. Comunque, mia cara, la RAI, in quel 1984, pensa che raccoglie 80 milioni di telespettatori, gli accrediti di stampa sono 2.700. e insomma tanti dischi venduti anche all'estero. Un vero e proprio successo, un trionfo. Ma intanto vediamo se indovino chi ha vinto il premio della critica, perché io credo che sia una tua passione. Un premio molto importante, molto anche nel meritato. 1984, e giustamente se lo ha meritato lei. Io l'ho cercata sopra il colle, la mia piccola ribelle, stava invece in casa tua, oh bambola. Con me viveva sotto il sole, a nutrirsi di parole, quando mai la rivedrò, oh bambola. Mandami a dire se è vero, corro a prenderla. Radio 24. Libera la voglia di fare. Da oggi tutta la radio che vuoi è sempre con te. Dove vuoi, quando vuoi, nella nuova app di Radio 24. Scarica subito l'applicazione gratuita per smartphone e tablet. Il segnale orario vi è offerto da Pneumatici invernali Yokohama V905. Metti i tuoi sensi in contatto con la strada. Mix 24, musica e storia. Andami a dire se è vero, corro a prenderla. Bentornati su Mix 24 Musica e Storia. Siamo nel 1984 e qua c'è un ombroso, ombrosissimo Franco Schipani. Che stiamo ascoltando ancora, Franco? Sai, ero un po' triste sentendo queste cose. Per una bambola di Patti Pravo, premio della critica 1984 a Sanremo. E perché sei triste, Franco, visto che tutti sappiamo che tu hai una vera e propria passione per Nicoletta? Per Nicoletta Strambelli. Grazie di avermelo ricordato, sì, è la mia passione. Bene, Franco, allora, ma intanto, prima di Sanremo, il governo Craxi il 14 febbraio vara il cosiddetto decreto di San Valentino, che taglia 3 punti di scala mobile e blocca per 3 mesi prezzi e tariffe. E qualche giorno dopo il decreto di San Valentino, il 18 febbraio, il presidente del Consiglio Craxi e il segretario di Stato Agostino Casaroli firmano il nuovo concordato tra Stato e Chiesa. per adeguare il regolamento dei rapporti appunto tra lo Stato e la Chiesa Cattolica ai principi della Costituzione Repubblicana, visto che il concordato era del 1929, come sappiamo, Franco, antecedente quindi alla nascita della Repubblica. Ma a febbraio succedono anche un sacco di altre cose, perché il 29 il 16° congresso della DC conferma segretario Ciriaco De Mita. Ma il 1984 in politica è ricordato soprattutto per un grandissimo lutto, perché l'11 giugno è il giorno della scomparsa di un grandissimo leader. È mancato di vivere alle 12.45. E così si è conclusa questa mattina alle 12.45 nell'ospedale di Padova la lunga agonia di Enrico Berlinguer, un'agonia cominciata giovedì sera. Possiamo dire cominciata quando ancora stava pronunciando il suo discorso in Piazza delle Erbe. Amato dai suoi compagni di partito, stimato dagli avversari, Enrico Berlinguer fa parte della storia della nostra Repubblica. Colpito da un ictus a Padova durante un comizio, l'abbiamo sentito, Enrico Berlinguer muore l'11 giugno del 1984. Al funerale a Piazza San Giovanni arrivano milioni e milioni di cittadine da tutta Italia. Berlinguer, lo ricordiamo, era stato fautore insieme ad Aldo Moro della politica di alleanza tra il PC e la Democrazia Cristiana, il celebre compromesso storico. E ascoltiamo la voce di Berlinguer in un faccia a faccia di Mixer del 1983. Ma per lei cos'è il potere? Il potere è uno strumento insufficiente ma necessario per realizzare gli ideali in cui credo io e in cui credono i miei compagni. Ecco, ma a lei cosa piace invece di più del potere? Piace la possibilità di far avanzare la realizzazione di questi ideali. E di meno? La cosa che le dà più fastidio? E di meno, parlando non soltanto a titolo personale, ma parlando come segretario del Partito Comunista, mi dispiace che il nostro potere sia ancora insufficiente per la realizzazione dei nostri obiettivi. Il congresso di Milano ha confermato lo strappo con Mosca. Questa distanza è destinata a ricomporsi oppure è destinata ad allargarsi ancora di più? L'autonomia in campo internazionale del nostro partito è ormai un fatto acquisito e immutabile. Le distanze o le vicinanze col Partito Comunista dell'Unione Sovietica, come del resto con altri partiti comunisti, dipendono dai comportamenti di questi partiti e dallo svilupparsi dei fatti. Qual è l'uomo politico italiano vivente che lei stima di più? Pertini. Per lei cos'è più importante nella vita, la politica o la vita privata? La politica, però non la politica in senso generico, perché io non ho fatto la scelta della politica, io ho fatto la scelta della lotta per la realizzazione degli ideali comunisti. Qual è il suo peggior difetto? Forse una certa spigolosità del carattere. E la qualità a cui è più affezionato? Quella di essere rimasto fedele agli ideali della mia gioventù. Scomparso Berlinguer nel 1984, la guida del partito passa ad Alessandro Natta. Ma i venti della protesta, cara Alessandra, arrivano anche al Festival di Sanremo, dove arrivano gli operai dell'Italcity di Genova fuori dal teatro Ariston minacciando di bloccare la manifestazione. Pippo Baudo ci parla, li convince, mentre sul palco e dite che cosa volete, quali sono le vostre dimostranze, e quindi il festival va avanti. Nessuna invece dimostrazione al Festival Bar, l'unica cosa è che rubano il presentatore a Sanremo, che era Cecchetto, capito? Sì, se lo prestano definitivamente, e insieme a Salvetti organizzano una meravigliosa manifestazione che è vinta da questa canzone. Se la sera non esci, ti prepari un panino mentre guardi la TV. Anche tu ti addormenti con qualcuno che alla luce del giorno non conosci. Anche tu ti telefono, no, ti telefono, no. Era Gianna Nannini con Fotoromanza, cara Alessandra. Mi telefoni o no, Franco? Ti telefono. Tu mi telefoni, sì. Perché lo sai che è una grande canzone? Lo sai le volte che uno dice mi telefoni, ti telefono? È una gara terribile quella, Franco. Pensa se ti telefonano e ti dicono, beh, senti un po'. Más alto de mi ciudad. No tengo dinero, Righiera, che è stato il tormentone del 1984, cara Alessandra. Pensa che è stata anche recentemente recuperata, perché questa è una delle dei rings, come dice, tones, come si dice in italiano? Suonerie. Suonerie, eccole. Ecco, suonerie. Più gettonate in Sud America in questo momento. Ormai sono un paio d'anni che tu senti questi telefoni che scrivono, senti, no tengo dinero. Ma lo senti un po' tutto il mondo. Può essere il refrain di tutti. Ok. Comunque, in America, ma in America del Nord, il 6 novembre il repubblicano Ronald Reagan inizia il suo secondo mandato con la vittoria in 49 stati su 50. Invece, dall'altra parte del mondo, la mattina del 31 ottobre, viene assassinato il premier indiano Indira Gandhi. Se avrò una morte violenta, come alcuni temono e qualcuno complotta, so che la violenza sarà nella mente e nelle azioni dell'assassino, non nella mia morte. Perché nessun odio è così cupo da poter oscurare la grandezza dell'amore che provo per il mio paese e per il mio popolo. Indira Gandhi viene uccisa dalle sue due guardie del corpo. E sempre l'India è teatro di un'altra tragedia. A Bhopal, il 3 dicembre, una nube tossica fuoriuscita dalla fabbrica della Union Carbide provoca 4.000 morti. Il metile isocianato è una sostanza chimica molto instabile. Oltre un certo punto, nessuno può controllarlo. È un materiale molto pericoloso. Sarebbe bastata una piccola perdita per uccidere migliaia di persone. Era come una zona di guerra. Completamente devastata, rasa al suolo. Come un campo di morte, un cimitero. Sogni svaniti, famiglie distrutte. Molte vite. Questa è la cosa più grave. E intanto nel 1984, nel Sahel africano, una spaventosa siccità provoca più di 1 milione di morti. Spaventosa, tanto che convince i grossi nomi del rock and roll mondiale, non solo quelli, a organizzare una grande manifestazione capitanata da Bob Geldof. Ecco un po', sentite che cosa hanno fatto. It's Christmas time, there's no need to be afraid. At Christmas time, we let it light, we banish shade. Questo è Bob Geldof alla chitarra, stanno facendo i provini di questa Band Aid. Hanno organizzato Live Aid, famosissima manifestazione che ha raccolto tanti milioni di dollari per aiutare le popolazioni in Africa. Restiamo in Inghilterra con un'altra bellissima canzone. I wish I could just make you turn around. Turn around and see me cry. There's so much I need. E questa è Against All Odds di Phil Collins. Che, scusa, è la colonna sonora di Due vite in gioco, che è diretto da Taylor Hackford con Rachel Ward e soprattutto Jeff Bridges. Questo Jeff Bridges, beh, soprattutto belloccio, ma ti rendi conto, l'hanno lanciato come attore bello e faceva solo quello in quel momento, invece poi con l'età è diventato, sai, tormentato. È diventato è il massimo, scusa, il massimo degli attori di Hollywood. Veramente una persona che non è stata, secondo me, valorizzata al punto giusto. Alessandra, che dici? Beh, comunque, per me era abbastanza valorizzato. Poi non lo so, fai tu. Ecco, c'è qualcuno che invece è bello, non bello, basso, grasso, non so, se ne frega, perché, beh, ascoltatelo. Permetti alcune domande sull'inchiesta? De corsa, però, perché vado un po' depresso. Sessualmente si ritiene soddisfatto? Alla grande. Lei è sposato, ha figli? C'ho figli, ma non sono sposato. C'ho un figlio a Stoccolma, un altro a Copenaghen, un altro in Romania e un altro a Riccione. Però quello di Riccione non ho fatto con una di Riccione, però ho fatto con una tedesca, una vecchiotta, però con i mammalucchi, col grano, capisci? Purtroppo sono uno che qua attacca non si sa frenare. È il limite mio, purtroppo. L'attuale maschio latino predilige sempre come luoghi per l'incontro d'amore, non so, la classica casetta al mare, la casetta in montagna, la garçonnière, lo studio di un amico. Lei... Io in genere lo faccio sul cofano. Ma non lo trova un po' scomodo, il freddo, all'aperto? Sono uno che tira i marci, il cofano mio è sempre bello caldo. Ok, a questo punto passerei al test. Sì. Mi rispondo a queste due precise domande. La prima, sua nonna sta per morire, ma ecco che le telefona Boderek. Ora succede, se lei va con Boderek, sua nonna muore. Se si rifiuta di andare con Boderek, sua nonna vive. Cosa sceglie? Faccio morire mia nonna, vado con Boderek. Seconda ed ultima domanda. Sì. Ecco, la chiama ancora Boderek per passare una notte con lei. Sì. Se lei va con Boderek, la Roma la prossima stagione non vincerà lo scudetto. Sì. Se lei non va con Boderek, la Roma vincerà il prossimo scudetto. Che fa? Non vedi questo, manda a quel paese Boderek, perché la Roma è una fede, la Roma è una speranza. Anzi, forza Roma che semi meglio. Ma che sei matto, metti avanti Boderek. Questo era Carlo Verdone, sta ancora ridendo, del 1984, sì, grazie. Prego. Ecco, nell'84 questo programma si chiamava Al Paradise, che andava in onda il sabato sera in prime time di Antonello Falqui, e Michele Guardì. Ti dico una cosa, dal Teatro della Vittoria di Roma. Storico teatro. Ecco, intanto però a New York nel 1984 si ballava questo. Don't do it, Frankie Goes to Hollywood, e All Night Long, Lionel Richie. Ma scusami, in questa estate del 1984, chi è che ci risolve il problema tormentone dell'estate? Il problemone dell'estate, esatto, risolto da questi due brani. Non voglio mica la luna, chiedo soltanto un momento per riscaldarmi la pelle, guardare. Voglio mica la luna, Fiordaliso e Kalimba de Luna, Tony Esposito. Ma a questo punto, come sempre, caro Franco, dici cosa ci siamo persi sulle hit italiane del 1984, ovvero quelle canzoni americane, inglese, straniere che non sono arrivate, che sono arrivate in ritardo, che avremmo dovuto ascoltare. Ok, ce ne sono due che non sono arrivate nel 1984, ma che meritavano tutta la nostra attenzione. And I ain't got nothing to say. I come home in the morning, I go to bed feeling the same way. I ain't nothing but tired. Man, I'm just tired and bored with myself. Hey there, baby, I could use just a little help. You can't start a fire. You can't start a fire without a spark. This gun's for hire. Just dancing in the dark. Pointer Sister, Jump and Dancing in the Dark di Bruce Springsteen, un video di MTV famosissimo perché la regista è di Martin Scorsese. Wow, però Franco, scusami, io sono andata un attimo a sbirciare nella tua playlist e ti sei perso un passaggio, un passaggio che per me è fondamentale, sono loro. Prove yourself, you always live your life, never thinking of the future. Prove yourself. Hai azzeccato questo? Mi è piaciuto molto. Honor of the Lonely Hearts, The Yes, Spencer. Mi fa impazzire. Tu, proprietario di un cuore solitario, datti una mossa. E in effetti gli ci vorrebbe un amico. Stare insieme a te è stata una partita. Va bene, hai vinto tu e tutto il resto è vita. Ma se penso che l'amore è darsi tutto dal tuo fondo, sono io che vado a fondo, ci vorrebbe un amico. Antonello Venditti, ci vorrebbe un amico. Ci vorrebbe un amico, Franco, perché io ti do una notizia che però non è tanto una notizia, ora capirai perché. Perché la Juve di Trapattoni nel 1984, indovina che fa? Vince il campionato. Eh sì, vince il campionato. Bene, bene, ma bene, la vera notizia nel calcio del 1984 è che, spendendo 15 miliardi, il Napoli fa un acquisto che diventerà piuttosto importante. Dal Barcellona arriva Diego Armando Maradona e inizia una storia d'amore pazzesca. Guarda, c'è la migliaccia che si sbraccia praticamente in regia. Inizia questa storia d'amore pazzesca con la città di Napoli. È una storia d'amore, una storia di coppia. A una storia di coppia. Coppia. Che mi vuoi dire sulle coppie? Beh, che nel cinema si stanno formando delle coppie, beh, molto divertenti. Allora, caro Naspe, caro Lobby, che è nostra amica. No, signor, fa. Ma che ostro. Allora, aspetta, no, non scrivere subito. Santissimo Savonarò. Santissimo. Come sei bello, per esempio, come si questo lì. Santissimo Savonarola. Ma scrivi come sei bello, no, no. Santissimo Savonarola. Quanto ci piace. Paolo, sono ancora... Sì. Quanto ci piace, Franco, quanto ci piacciono Massimo Troisi e Roberto Benigni in Non ci resta che piangere, che esce proprio nel 1984. Capolavoro. Un capolavoro assoluto. Beh, allora, andiamo dall'altra parte dell'oceano. Senti questo sottofondo? Sì che la sento, certo. Senti, è un'altra coppia. Miami Vice. Miami Vice. Che ha cambiato la storia della televisione. Che almeno si sposerà? Lo sai tu, il reparto gossip è tutto tuo. È Melanie Griffith. Ma è una gran donna, protagonista di Una donna in carriera. Comunque Don Johnson diventa uno degli uomini più desiderati del mondo. Dopo... Padre Ralph di Uccelli di Rovo. Bravo, vedi che è imparato, bravo, va bene. Però Padre Ralph è un'altra categoria. Va bene, comunque loro erano meravigliosi. Guarda, la televisione a colori, vestiti da Armani, che avevano queste Ferrari, con i capelli fatti un taglio di capelli da $50. Tu mi vuoi dire che è fichissime. La prima serie davvero, davvero rock. Esattamente, infatti loro negli anni poi hanno chiamato molti musicisti rock a partecipare, a fare gli attori, da Frank Zappa al batterista degli Eagles. Si sono veramente scatenati. Anche per questo aveva successo Miami Vice. Franco, sempre nel 1984 io ho spulciato ancora la tua playlist, perché ci sono un sacco di donne di cui abbiamo parlato poco, o comunque però almeno le abbiamo citate. Mi riferisco, non lo so, Tina Turner. Ah, Madonna, Madonna, bravo, certo. Ma c'è una grandissima assente. Te la posso fare? Te la faccio sentire. Scatenati, scatenati. Le ragazze si vogliono solo divertire, Franco. Hanno ragione. E allora adesso facciamo divertire la nostra Antonella Migliaccio, che come sempre per chiudere ha scelto un brano del 1984, Fotoromanza di Gianna Nannini, però rifatta da Marracash. Ciao, ci risentiamo nel 1985, quindi... Ciao da Franco Schipani, ciao! A venerdì prossimo, ciao! Tanto ci penso, chissà che fai, se stai meglio adesso o c'hai dei guai. Anche tu. Ed è un mese che faccio tardi e mi riempio la vita per non pensarci. E gli altri che ne sanno di ciò che ho dentro, il cielo è spento e non vuoi distrarti. Anche tu. Chissà se anche tu ora odi questa città e non ne puoi più. Senti sola mentre guardi la TV e ti svegli sola e il corpo in gola non va di giù. Ed è proprio come quando scazzavamo con tu che chiudevi il faccio. faccia e non ti richiamava. Ogni volta era finita finché ci passavi sopra, finché ci passavo sopra, fino alla prossima volta. Ma ora il telefono no, no. Il telefono no, no. Io non cedo per primo. Io no, hai capito no. Fai andare quel dito mo, dito mo. Mi telefoni o dai, mi telefoni o dai. Chissà chi vincerà. Chissà, chissà, questa volta chissà, chissà come finirà. Finirà. Ed è un mese che non mi chiami e non vai nei club dove sai che puoi incontrarmi. Io do pugni alle pareti invece di darli a quelli che da sempre vogliono scopare. Bastardi. Finalmente liberaio, le ho tutte attorno come i divi al cinema. Però quando chiudo gli occhi e sogno tu sei là e mi sento solo con la mia libertà. Fotoromanzo di periferia, ora assieme a te ho perso la mia fantasia e non trovo parole nuove, non so che droghe usare per curarmi da sta malattia. C'è dell'orgoglio sotto l'armatura, ci rimani sotto a chiederti se è colpa tua. A chi è stato il bastardo e a chi è stato testardo e a chi stavi pensando fissando quella cornetta. Dimmi a chi. Ti telefono no, no. Ti telefono no, no. Io non cedo per primo. Io no, hai capito no. Fai andare quel dito mo, dito mo. Mi telefono dai, mi telefono dai. Chissà chi vincerà. Chissà, chissà, questa volta chissà, chissà.